Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 413, nella quale parleremo di omicidi nella nebbia, animali alieni, un silvestro che annualmente si ripropone, ma che non è un gatto. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a Diane Fossey, una donna statunitense che per tutta la vita aveva combattuto per la salvaguardia dei gorilla e che fu brutalmente assassinata la sera del 26 dicembre 1985 nella sua capanna nella foresta del Virunga, in Ruanda. L'arma del delitto fu un arnese locale chiamato Panga, usato dai bracconieri per uccidere i gorilla una volta caduti in trappola. Fossey è stata ritrovata solo il giorno seguente, ormai priva di vita, e con ogni probabilità la responsabilità della sua morte è da attribuire a chi in Ruanda non aveva interesse alla salvaguardia dei gorilla o chi vedeva in Fossey, nella sua caparbia difesa dei gorilla di montagna del Virunga, una minaccia alla crescente e redditizia attività turistica della regione. I gorilla purtroppo corrono sempre più il rischio di estinguersi. Una delle cause principali che rischia di compromettere l'esistenza di questi animali, oltre ai processi di deforestazione che riducono l'habitat dei gorilla, è l'attività di bracconaggio illegale, praticato in quelle aree a danno di molti animali ritenuti preziosi perché rari. Fossey è stata una donna coraggiosa e tenace, pioniera della moderna battaglia per la conservazione del pianeta. Il suo lavoro assume ancora più rilevanza alla luce dell'attuale condizione della specie gorilla Beringhei, che è prossima all'estinzione. Nel 1988 è uscito il film Gorilla nella nebbia, tratto dall'autobiografia omonima di Diane Fossey. Interpretato da Sigourney Weaver, il film racconta la strenua lotta di Diane Fossey contro il bracconaggio, quella stessa battaglia che con ogni probabilità le costò la vita. Sigourney Weaver, per la sua interpretazione di Diane Fossey nel film Gorilla nella nebbia, si è aggiudicata un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Stanno per estinguersi, un'invasione silenziosa minaccia la biodiversità in Europa e nell'area del Mediterraneo. Si tratta delle specie aliene invasive, di quegli animali cioè che l'uomo ha introdotto in ambienti diversi da quelli di origine. Il fenomeno è in costante crescita, viene segnalato così nei media, tanto che negli ultimi anni ha registrato un aumento del 76% in Europa e del 96% in Italia, questo affermano gli esperti. In Italia sono 3.000 le specie aliene, di cui il 15% sono invasive, ovvero capaci di danneggiare il patrimonio naturale e di mettere a repentaglio l'esistenza stessa di specie alloctone. I responsabili di questa cosiddetta invasione sono tanti. Da una parte c'è il commercio di animali e piante proveniente da paesi lontani dal vecchio continente. C'è poi l'innalzamento delle temperature che consente a tali specie di trovare qui da noi condizioni ecologiche favorevoli. Infine c'è l'introduzione volontaria per le attività di pesca sportiva e venatoria o il rilascio da parte degli stessi cittadini che rinunciano a un animale da compagnia oppure la fuga dagli allevamenti. Specie è la nutria, animale originario del Sud America, importata e allevata per la sua pelliccia di castorino, poi sostituito dal più raffinato e costoso visone, e molti allevatori, per disfarsi degli animali, hanno preferito risparmiare i soldi dell'eutanasia e si sono limitati ad aprire le gabbie. Molti esemplari sono fuggiti, insediandosi nei fiumi italiani, principalmente il bacino del Po, dove hanno trovato un ambiente ideale per la loro riproduzione. Fino all'11 agosto 2014 la nutria era un animale selvatico patrimonio indisponibile dello Stato, ma con la legge dell'11 agosto 2014, la numero 116, la nutria, il mio castor coipus, non è più classificata come fauna selvatica, bensì come specie nociva, al pari delle talpe, dei ratti, dei topi e delle arvicole. Il passaggio a specie nociva produce principalmente due effetti. Intanto trasferisce le competenze sulla gestione dalle regioni alle province e ai comuni e poi esclude le nutrie dalle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma, facendole transitare tra le specie nocive, infestanti e dannose, dando quindi il via libera all'utilizzo di tutti gli strumenti per il loro annientamento. Sì, infatti non si parla più per gli animali nocivi solo di contenimento numerico, ma anche di eliminazione totale, analogamente a quanto avviene con le derattizzazioni. Ma ad occuparsi di nutrie, per fortuna, non ci sono solo i cecchini. Noi abbiamo conosciuto una volontaria fantastica, si chiama Laura, è specializzata nel recupero di questi meravigliosi e sfortunati animali. Sentiamo il servizio. Questa è stata recuperata da un ragazzo a Cesena. È stata recuperata che era piccolissima, erano stati trovati in due, uno purtroppo è morto, e dopo lei è stata portata da me per continuare l'allattamento e adesso fa parte della nostra famiglia. Questi sono i versetti che fanno quando sono felici, sono coccolati. Sentiamo un po'. Aspetta, capiamo. Sto accarezzando Tata. È felice, questi sono versetti di felicità. Sta dicendo la mamma, quindi mi sta coccolando, mi sta strapazzando. Emma è un'altra cucciola. Senti, che è stata trovata e recuperata da piccolissima. Emma è stata trovata orfana. Molto probabilmente la mamma è stata uccisa o ha avuto un incidente. È molto strano che una mamma abbandoni i cuccioli. Una mamma non si allontana mai. È un grande gabbione che avete costruito voi? Sì, queste qua sono tutte state costruite da noi in base appunto alle esigenze. All'interno di questo gabbione, che sarà circa 3 metri quadrati più o meno, sì, più o meno. All'interno c'è una grande vasca, ma di quelle grandi. Sono animali semiacquatici, hanno strettamente bisogno dell'acqua. Poi fondamentale una cuccia dove ripararsi come tana, poi il cibo naturalmente a disposizione perché sono delle gran mangioni, dell'insalata, delle carote, piace molto la cicoria, qualche volta erba. Che cos'è quella specie di glue? È una cuccia. È una cuccia per cavie e per conigli, del fieno dentro perché a loro piace nascondersi, avere comunque un giaciglio dentro. Il fieno non lo mangiano assolutamente, che invece tanti veterinari consigliano come alimento il fieno. Le nutrie non si alimentano col fieno. Tutte le tue nutrie sono sterilizzate, sia sì, femmine che maschi? Sì, assolutamente sì. Essendo una volontaria, non solo che si occupa di nutrie ma di qualsiasi animale, Per me la sterilizzazione è proprio fondamentale per un benessere psicofisico. La sterilizzazione e la castrazione può essere fatta per un maschio verso i 6 mesi, per una femmina anche un po' prima, però intorno ai 6 mesi, prima del calore. Sono animali che comunque riconoscono, instaurano il rapporto con la persona che si prende cura, non danno la confidenza a tutti, però sono animali che, se accuditi, fanno delle soddisfazioni. Molte. Questi animali sono in attesa di adozione? Se si dovessero presentare degli adottanti con dei requisiti buoni, sono in adozione. Quindi se le persone danno delle garanzie, sì, li possono adottare? Sì, vengo sempre più contattata da persone che fanno recuperi di questi animali, o feriti o comunque in situazioni in pericolo. Quello che io mi aspetto è trovare sempre più persone vicine nell'accogliere questi animali, che non è una cosa impossibile, anzi. L'importante è rispettare i tempi di un animale selvatico, non aspettarsi di avere un animale domestico, e con questi giusti tempi sono animali che danno tanto e sono animali da scoprire, da conoscere. Se avessi una casa, un giardino, quanto spazio dovrei dedicare loro? Al minimo 3 metri per 2, minimo. Più il recinto è grande, meglio è. Però sono anche animali che non sono come i conigli, che hanno bisogno di fare corse, salti. Sono animali molto tranquilli. A loro veramente basta una vasca d'acqua, una bella cuccia. Sono animali tranquillissimi. In natura quanto si spostano rispetto alla loro tana? Non si allontanano mai più di 10 metri dalla tana, perché sono prede. Devono avere la possibilità di raggiungere la tana in meno tempo possibile per non essere predate e uccise. Come si chiama? Pitagora. Non gliel'ho messo io il nome. Ce l'aveva già, l'abbiamo mantenuto. Tira morsini? Diciamo che tira morsoni. Morsoni. Allora, caro Pitagora, è stato bello? È stato prelevato da una persona non tanto a posto, mal gestito, ed era diventato aggressivissimo, per difesa naturalmente. Dopodiché sono intervenute delle guardie zoofile e l'hanno recuperato, mi hanno contattato e è arrivato da me, questo dall'Emilia Romagna. Adesso si è addolcito parecchio, perché con noi si è addolcito parecchio. La castrazione sicuramente ha aiutato, però bisogna dargli del lei. A sì. Lui va dato del lei. Lui entriamo con gli stivali. Vieni, no. Oh, Marco, guarda, sta attento. No, sono qua, non esce. No, non esce, che non te ciappa un morso e comunque. Ah, buon, te hai stivaiti. Nemo e Emi. Nemo viene da Treviso, è stato recuperato in una fattoria didattica. La mamma è stata uccisa, vero Nemo? Sta giocando, facendo così è un invito a giocare, ma è un gioco. Oh, dimostrano proprio chiaramente quando non è apprezzato un qualcosa, appunto ringhiando, soffiando, si inarcano. Naturalmente giocano con la bocca come i cani, comunque anche i gatti, però non la usano, cioè non usano il morso. Mettersi in pancia in su comunque è anche un segno di estrema fiducia, come puoi ben vedere. Cioè, è contentissima di vederti e di giocare con te. Esatto, certo che gli fa piacere che io sia qui con loro. Un soggetto allattato, tirato su così domestico, sono animali che hanno bisogno del contatto, che sia di una persona o di un altro simile. Lui è arrivato da me che avrà avuto 5-6 giorni al massimo. Questa è Albina? Sì, questa è Albina. Anche lei trovata orfana, piccolissima, in un argine, dei ragazzi che stavano passeggiando e l'hanno recuperata. Le abbiamo messe all'esterno, le abbiamo costruito questo recinto perché siano più libere e abbiano appunto a disposizione sempre l'acqua corrente per rispettare le loro esigenze. Quanto tempo passano nell'acqua? La maggior parte del loro tempo, perché loro in acqua mangiano, dormono, fanno i bisogni. Emi ci vede poco, essendo albina, i raggi solari creano non pochi problemi. Nemo? Nemo ha voglia di giocare. Sì. Nemo è un pagliaccio. Questo è un loro verso anche per richiamare. Anche le mamme chiamano i cuccioli così. È come voler dire, vieni qua. È bellissimo vederli giocare tutti e tre nel vascone. È socievole. Sì, molto socievole. Basta proprio lasciare i loro tempi, rispettarli. E sono animali che danno molto, molto. Danno anche il contatto fisico, no? Che non è una cosa scontata. Esatto. Adesso giocano. Troppo belle, in acqua che giocano, fanno la lotta, fanno finta di fare la lotta, partono schizzi d'acqua, danno proprio una sensazione di felicità, di gioia. Molly è una nutria disabile che è stata recuperata un anno e mezzo fa e abbiamo scoperto 4 fratture vertebrali, 3 alle vertebre toraciche e una lombare. Le schegge della frattura gli procuravano questa infezione continua, così si è deciso con i veterinari di fare un intervento di neurochirurgia di limatura della spina dorsale, intervento molto invasivo. Fortunatamente dopo 5 ore di intervento, perché è stato un intervento molto complesso, si è risvegliata, vabbè, ok, abbiamo fatto una terapia di antidolorifica per i primi giorni post-operatori abbastanza tosta, data la gravità dell'intervento, dopodiché un po' alla volta Molly è guarita, però il carattere è un po' tremendino, lei ce l'ha. C'è anche da dire che lei ha fatto 8 mesi di terapie e di medicazioni tutti i giorni, ha sopportato, insomma, una cura molto molto impegnativa e anche invasiva. Adesso entrerà nell'acqua e lì Tony. Speriamo che... Mattina manca tutta la parte superiore del labbro perché è stata recuperata incidentata, aveva tutto il muso rotto. È stata recuperata da un ragazzo di Dolo, fuori proprio dall'autostrada, sulla rotonda. Pensava fosse morta, si è fermato per metterla sul ciglio perché non venisse schiacciata e lì si è accorto che aveva una zampetta che la muoveva appena appena. Ha chiesto aiuto in Facebook e poi hanno dato il mio contatto, è stata portata qui. Lei era in condizioni abbastanza gravi, pian pianino con le cure e ce l'ha fatta. Questa è una nutria selvatica. Però si fa accarezzare. Certo, perché, ripeto, basta dare soltanto dei tempi, interagire in un modo leggero e delicato. Loro sono animali che si abituano e amano il contatto. Se non minacciate o stressate, non attaccheranno mai. Sono animali assolutamente miti, tranquilli e intelligenti, perché come avete potuto vedere conoscono il nome, lo riconoscono il proprietario. Perché queste sono state tutte recuperate da singoli cittadini che fortunatamente si sono rivelati persone sensibili. Per la nutria pochi animalisti si muovono e questo per me è stata anche una delusione grande, perché da animalista come io sono, come combatto per un gatto, per un cane, per un cavallo, per una pecora, combatto anche per le nutrie. Mi piacerebbe che tutti la pensassero così, però così non è e questa è la realtà. ho iniziato come gattara. A 14 anni avevo delle amicizie più grandi di me, naturalmente, che hanno intrapreso la strada del volontariato. Io, molto affascinata e comunque con una grande passione, gli ho corso dietro. E da lì ho iniziato a fare recupero di animali incidentati, o di fare dei recuperi di catture di colonie, di gatti di colonia per le sterilizzazioni, per le cure, i primi allattamenti di orfani, sempre di cani e gatti. E da lì comunque sempre, cioè, il mio amore per gli animali mi ha portato a averlo anche per altre specie, non solo per cani e gatti. Posso anche dire che nella mia adolescenza gli animali mi hanno aiutato tanto a superare dei miei momenti di crisi, e dopo, adesso che comunque una stabilità sia psicologica che tutto, adesso io ci sono per loro. È un amore proprio, una necessità mia, è un piacere, perché è una cosa che sento profondamente. L'unico mezzo che ho di comunicazione. Funziona, perché lì comunque ho potuto anche conoscere altre persone che comunque vivono la mia realtà. Così c'è anche un aiuto a livello anche solamente di pareri, di consigli. Qui nel mio paese non avrei mai potuto comunque confrontarmi. Questo mi ha aiutato molto, sia nel conoscere altre persone come me, sia anche per avere consigli o pareri, delle esperienze. Questo secondo me è una cosa molto importante per poter crescere sempre di più e conoscere sempre di più. Voi siete una coppia e vi occupate insieme di questi animali? Assolutamente sì. Vi siete scelti per questo fine oppure è capitato? Fin da bambina il mio mondo era in mezzo agli animali, infatti poche relazioni sociali, però con gli animali tantissime. Lui era un po' più distante rispetto a me, però un pian pianino si è avvicinato e adesso possiamo dire che siamo alla pari. Per ora sono vegetariana, spero di diventare anche vegana, dovrò lavorarci. Nell'ultima puntata di quest'anno voglio parlare di due icone rock che hanno collaborato con l'associazione Peter. Sono Nick Cave, che ha concesso il brano, e Iggy Pop, che si è trasformato in cartone animato. Il video è la rappresentazione del sogno del cane di Iggy Pop, che lo immagina come un supereroe che protegge gli animali. Il tutto ha come colonna sonora Breathless di Nick Cave, un brano dolcemente bucolico, ed il risultato è veramente divertente, piacevole ed effetto. Non ci credete? Sul sito di Restiamo Animali lo potrete vedere, ma intanto ascoltiamo Breathless e prepariamoci ad un nuovo anno. Buon ascolto! Up in the morning, it's on the dance, and little white clouds like a gambling lens. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he is helpless before you, and the happy hooded bluebells bow and a bend of their heads all down, heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your mind, and still your soul, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees, and it bangs about the new-made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my jordering bones, and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. E anche quest'anno sta giungendo al capolinea. Vi state preparando? Non vorrete mica un 2018 sfigato e squattrinato. E allora, per il 31, non possono mancare sulla vostra tavola le lenticchie. E noi ve le suggeriamo così, alla montanara. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet. I ingredienti per 4 persone sono 200 grammi di lenticchie verdi secche, 2 foglie di alloro, 1 spicchio di aglio, olio extravergine, 1 decina di castagne arrostite, 100 grammi di pomodori passati, del timo, sale e pepe. Sbucciate le castagne precedentemente arrostite e tagliatele a pezzetti. In un tegame fate rosolare il timo, l'alloro e lo spicchio di aglio in camicia schiacciato. Aggiungete il pomodoro passato e dopo qualche minuto le lenticchie che avrete sciacquato sotto l'acqua corrente. Coprite con brodo vegetale e fate cuocere per 15 minuti. Aggiungete le castagne e aggiustate di sale e pepe. Quindi lasciate a fuoco lento fino a quando le lenticchie saranno cotte. Servite in tavola e buon appetito e buon 2018 dal vostro tosco vegan chef di fiducia. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 414 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.